Le pantalon. Kulusi. Kulusi. Kulusi. Souffre. Kiribi. Kiribi. Kiribi. Meurtrir. Birinti. Birinti. Birinti. Chemise. Bloki. Bloki. Bloki. Retourner le sol. Bouloukou. Bouloukou. Bouloukou. Espèce d'arbre. Donkori. Donkori. Donkori. Bonnet. Banfula. Banfula. Banfula. Maladie. Djangaro. Djankaro. Djankaro. Chat. Djakuma. Djakuma. Djakuma. Crépuscule. Fitiri. Fitiri. Fitiri.